Radio 24 e Salone del Libro 2012 presentano Piccolo Mondo Antico. Da domani a Torino apre la 25esima edizione del Salone del Libro. Per gli organizzatori, l'anniversario è l'occasione giusta per guardare all'evoluzione delle forme del sapere nell'ultimo quarto di secolo e per provare a immaginare il loro futuro. Con Piccolo Mondo Antico, anche Radio 24 racconta i cambiamenti culturali in corso. Senza nostalgia, ma con il piacere di scoprire la strada percorsa e di immaginare i prossimi passi. Per questo, oggi parliamo di un oggetto scomparso, almeno per come lo abbiamo conosciuto. L'enciclopedia. Aristotele è un'aquila. Gli altri non sono che dei pulcini. Fin dall'antica Grecia, l'uomo si sforza di dare forma sistematica a tutte le proprie conoscenze, di ordinarle, cioè, in un insieme coerente e completo. Proprio un greco, il filosofo Aristotele, è considerato il primo enciclopedista della storia. È con l'illuminismo, però, che in Francia nasce la prima enciclopedia moderna, 36 volumi con 75.000 voci in ordine alfabetico, per un totale di 18.000 pagine. La rivoluzione francese fece il resto e fu un successo immediato. Nel giro di pochi decenni, anche gli altri stati moderni realizzarono una propria enciclopedia in lingua nazionale, aggiornando le edizioni con l'avanzare delle scoperte scientifiche e geografiche. La macchina del sapere sembrava lanciata su binari certi e immutabili, ma il terzo millennio stava già preparando una nuova rivoluzione, forse meno violenta, ma non meno radicale di quella della Bastiglia. Enciclopedia Microsoft Encarta 98, l'enciclopedia multimediale più diffusa al mondo. Encarta 98 è molto più di un'enciclopedia tradizionale, oltre 6.500 foto e illustrazioni, 1.000 carte geografiche, tabelle e grafici, 1.900 clip audio e brani musicali, 100 filmati e animazioni aiutano la comprensione e l'apprendimento e stimolano la ricerca. Nel 1993 Microsoft lancia Encarta, la prima e più diffusa enciclopedia su CD-ROM. La primavera digitale inizia a soffiare sui polverosi volumi delle enciclopedie di carta. Se gli illuministi francesi avevano ordinato il sapere con rigore razionale, gli ingegneri della Silicon Valley alleggeriscono la conoscenza rendendola più attraente e più agile. Senza il limite fisico della carta, diventa possibile mettere in relazione due argomenti, diversi fra loro, ma uniti da un terzo argomento che li accomuna. Nascono i collegamenti ipertestuali. Area di interesse? Avete nozioni di fisica? Ah, accesso ai dati di fisica. Ingegneria meccanica. Ottica multidimensionale, cronografia. Casualità e paradossi temporali. Nel 2001 arriva l'ultima dirompente novità, almeno per il momento. Nasce Wikipedia, un progetto gratuito e disponibile online che nel giro di un decennio ha raggiunto dimensioni inimmaginabili. Più di 20 milioni di voci e 77 milioni di pagine. Per la prima volta, il sapere non è più appannaggio di un gruppo di sapienti più o meno autorevoli e accreditati. Ora tutti possono scrivere nuove voci enciclopediche, liberamente, partecipando ad un progetto di sapere collettivo. E i risultati si vedono. Wikipedia è il quarto sito più votato al mondo, con circa 450 milioni di utenti al mese. Ma la partita tra carta e web non è ancora chiusa. Le enciclopedie tradizionali hanno accettato la sfida riorganizzandosi in formati più leggeri e con contributi multimediali. La stessa Enciclopedia Britannica è da quest'anno disponibile online con un prezzo di abbonamento molto basso, circa 50 euro. E se tutto questo sforzo non bastasse, potrebbe essere Wikipedia stesso ad arrendersi, nel caso i suoi volontari smettessero di aggiornare le pagine, facendole così scivolare in fondo ai motori di ricerca nel nuovo oblio del digitale. Piccolo Mondo Antico è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.